Ministro, il lodo Alfano è passato alla Camera, però l'opposizione protesta, una legge ad persona, ma adesso dovete fermare il blocca processi. Noi abbiamo portato al vaglio del Parlamento una legge che riteniamo serva al Paese, perché serve a far sì che chi svolge importanti funzioni ai vertici dello Stato le possa svolgere serenamente. Crediamo anche che l'Italia meriti un governo come tutte le democrazie occidentali e che dopo aver brillantemente vinto le elezioni il presidente Berlusconi meriti di governare l'Italia. Presenterete delle modifiche al blocca processi? Casini ha parlato di un baratto con il PD. Noi non abbiamo barattato alcunché e la reazione in aula del PD ne è la prova. E crediamo nell'ambito del decreto sicurezza di dover riformulare una norma che tenga fermo il principio che alcuni reati commessi più di recente di maggiore allarme sociale vanno contrastati rapidamente e la riformulazione di domani crediamo possa togliere dal campo una serie di ragioni polemiche che hanno occupato il campo del dibattito pubblico in queste ultime due settimane. Accettato l'emendamento del PD sul fatto che non verrà reiterato il lodo Alfano per le alte cariche dello Stato, questo vuol dire che Silvio Berlusconi non potrà candidarsi per il Quirinale in un futuro? Il Quirinale ha già un inquilino che noi stimiamo e che riteniamo stia svolgendo straordinariamente bene con grande equilibrio la sua funzione. Un secondo, già sono pronti per registrare.